Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. We'll bring peace. il popolo. Get your ball! Yeah. Get your ball! You want it back? Yeah. Go get it! What do you think we're storming? Shake your shade. What do you think? Now all the lorries riding for time. nella seconda parte di Eclettica, quella che state ascoltando, la voce è quella di Giulio Cappardoni, in compagnia vostra tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, altrimenti disponibile in podcasting. L'indirizzo di mail è giulio@radiorockfm.com. Questa seconda parte l'abbiamo aperta con un brano diverso rispetto a quelli che già conoscevamo del gruppo di Glasgow di nome Frightened Rabbit, il coniglio che ha paura, ascoltato con Square Nine. Poi è stata la volta degli italiani Joycat, Shake Your Shape, l'estratto dal loro album d'esordio, per proseguire con un nome che compare spessissimo, ormai da mesi, direi più o meno da un anno, all'interno delle playlist di Eclettica, prima con l'album d'esordio e poi anche come autori di remix. Sto parlando del trio basato a Brighton, falso duo giapponese di nome Fujiya e Miyagi. Hanno pubblicato un nuovo pezzo, il primo nuovo materiale dopo l'album d'esordio Transparent Things. È un brano che loro descrivono come una canzone sullo spazio e sul tempo, sull'alfabeto e sulle ragazze, e sempre gli stessi Fujiya e Miyagi dicono che è a metà fra Prince e i Kraftwerk. Si intitola feeling okay. I thought that space and time went back and forth and sideways. I'm putting out fires all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh, she made me go Era un bel mattino, chiaro e caldo, verso la fine di agosto. La riunione della famiglia Karamazov, in casa dello Starez Zossima, doveva aver luogo alle 11:30. Come estrema risorsa, si era ricorso a questa adunanza d'un consiglio di famiglia, sotto il patronato del venerabile Vegliardo, per risolvere il dissidio sorto tra Fyodor Pavlovich Karamazov e il suo figlio primogenito, Dmitri Fyodorovich. La situazione tra il padre e il figlio era estremamente tesa. Dmitri Fyodorovich pretendeva l'eredità di sua madre e Fyodor Pavlovich sosteneva di aver già dato a suo figlio tutto ciò che gli era dovuto. Questo era l'incipit dei fratelli Karamazov, di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij.